Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, ascolteremo anche i vari commenti ai dati economici di oggi sull'Italia. I nostri GR24 vi hanno già ricordato che l'Istat ha da un lato rivisto al rialzo il dato sul PIL nel 2015, ossia da 0,7 la crescita è 0,8%, anche qui. Diciamo in maniera molto chiara, non ci vuole un genio per capire che è meglio 0,8 che 0,7, e resta il dato che torna alla crescita dell'economia italiana dopo 3 anni di recessione. Allo stesso tempo va detto che è una crescita debole, nel senso ancora a un livello diciamo molto molto debole di, come percorso, che ha questo piccolo problema di avere avuto dei dati in rallentamento nell'ultimo trimestre del 2015. Il PIL in volume resta ancora sotto il livello del 2000, per cui siamo ancora a un livello precedente all'anno 2000. Questo lo dico perché molti si esercitano nel gioco, ma quando è che torneremo al livello del 2007? Boh, per ora con questi tassi dopo il 2020, ma come abbiamo aggiunto molte volte, chi se ne frega, nel senso che sapere nel 2022 che tu sei tornato al livello del PIL del 2007, tanto dopo 15 anni ti è cambiata la vita da un punto di vista professionale e imprenditoriale, per cui se sei sopravvissuto hai già cambiato modello, hai già cambiato il mondo e il tuo modello di business, se no non ce l'hai fatta, per cui è un calcolo statistico che ci appassiona molto molto poco. Parleremo, lo ha fatto poco fa Oscar Giannino, ma parleremo anche noi della dichiarazione del numero uno dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, il lato oscuro dell'Agenzia delle Entrate per chi non collabora con gli accertamenti. Ma in tema di Istat oggi non c'è solo il dato sul PIL, per quello che riguarda gli altri dati c'è anche il dato sul deficit PIL al 2,6%, che è un buon dato anche se non è quello che avevamo promesso all'Europa, ma è un buon dato perché è il livello più basso di deficit rispetto al PIL dal 2007. E l'anno scorso, l'anno prima, cioè nel 2014, facemmo 3%, ed è uno degli elementi fondamentali per non incorrere nelle sanzioni europee. Gli investimenti tornano a crescere dopo 8 anni, gli investimenti fissi lordi più 0,8%, anche qui è una crescita modesta, ma è una crescita. L'ultima variazione positiva risaliva al 2007. La pressione fiscale si attesta al 43,3%. Rispetto al 43,6% del PIL nel 2014. Anche qui sono decimali, però faccio notare che il 43,3% è il livello più basso, si fa per dire, di una pressione fiscale molto alta, il livello più basso dal 2011, quando toccò il 41,6%. Infine la disoccupazione. A gennaio è stabile all'11,5%, che vuol dire invariato rispetto al mese precedente, ma più basso dello 0,7 rispetto a gennaio del 2015. Anche qui il dato è positivo, non drammaticamente positivo, però la disoccupazione era al 12,2%, scende all'11,5% anno su anno. Allora ci chiedete se parleremo anche della Popolare di Vicenza. Certo che parleremo della Popolare di Vicenza. Dopo aver commentato questi dati, le nuove ipotesi di reato su cui stanno lavorando la procura, sta lavorando in sostanza la procura di Vicenza sull'indagine sulla Banca Popolare di Vicenza, poi torneremo a parlarne perché per chi si fosse perso le puntate tristi precedenti, insomma, secondo fonti ben informate che tutte le agenzie hanno riprese come certe, la procura starebbe lavorando, e quindi il procuratore Antonino Cappelleri e i sostituti Luigi Salvadori e Gianni Pipeschi starebbero lavorando sul reato non solo di falso in bilancio, ma anche di associazione per delinquere. Ricorderete che lo scorso settembre vi erano state perquisizioni nella sede della Popolare di Vicenza, a Vicenza, ma anche a Milano, Roma e Palermo. Ne parleremo, la vicenda è nota, ahimè, ai correntisti e agli azionisti, soprattutto al Polo di Vicenza, perché il titolo non era quotato, lo ricorderete, che non essendo quotato il valore dell'azione veniva dato in maniera arbitraria, scelta dal Consiglio di Amministrazione, fu stabilito nel 2013 a 63 euro, 62,5 euro per azione, poi nel 2015 fu portato a 48 euro senza che nel frattempo nessuno potesse vendere il suo titolo, perché andavi allo sportello e non si trovava mai un compratore, con la conseguenza che adesso, dopo l'ultimo consiglio di amministrazione, il prezzo è sceso ulteriormente a 6,3 euro per azione, cioè un decimo di quanto l'avevano comprato la maggior parte degli azionisti della Popolare di Vicenza, senza avere la possibilità di venderlo nel frattempo, quasi tutti, perché lì poi ci sono anche indagini che riguardano alcuni soci invece che avrebbero avuto un trattamento di privilegio con la possibilità di recesso, cioè di uscire al prezzo con cui l'avevano acquistata, quindi senza perderci nulla. Tutto il resto delle persone hanno perso il 90% dell'investimento su un titolo, ripeto, in borsa si può perdere, ma almeno hai la possibilità di vendere il titolo, c'è una liquidità di mercato, c'è un flottante. Quando l'azione viene stabilita in maniera arbitraria dal consiglio di amministrazione e poi tu la compri, e quando cerchi di venderla perché magari hai bisogno dei soldi o senti voci che la banca non sia così solida, non si trova mai un compratore, quello che è successo è che se le sono tenute in saccoccia, intanto quando sono scese da 62,5 a 48 euro e poi ulteriormente da 48 euro a 6,3 euro. La novità è appunto l'associazione per delinquere. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina e per WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Infine parleremo, alla luce di questi dati congiunturali positivi, modestamente positivi, ma positivi, parleremo anche del rapporto annuale che viene sui distretti industriali di questo paese, che viene realizzato appunto come ogni anno dal Centro Studi di Intesa San Paolo, utilizzando più di 48.000 aziende come campione, quindi è la fotografia più precisa che ogni anno viene scattata sull'andamento dei nostri distretti industriali e soprattutto su quella che è stata la loro evoluzione. I 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore sono dedicati oggi ai dati sul PIL, sono trasmessi come sempre anche su Radio Dimensione Suono. La firma oggi è del vice direttore Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Platerotti. Buone notizie per il PIL italiano, cioè la ricchezza prodotta dalla nazione, che nel 2015 è aumentato dello 0,8% dopo 3 anni consecutivi di flessioni, in rialzo anche rispetto alla stima provvisoria che indicava una crescita dello 0,7%. Il dato fa un po' ridere, nel senso che puntiamo a parlare di decimali, di 0, ma in un momento in cui anche le virgole contano nel negoziato sulla legge di stabilità con Bruxelles, il successo per il governo sembra buono. Detto questo, i problemi del paese non spariscono di certo con lo 0,8%. Anzi, proprio in questi giorni si è tornato a parlare di spending review e di revisioni della spesa e soprattutto di tagli di spesa e degli sprechi. In realtà anche lì andrebbe un po' rivisto il dibattito. Sarebbe ora, invece di parlare soltanto di tagli di spese, di riduzione degli sprechi ma con guadagni di efficienza. Se ad esempio si digitalizzasse la pubblica amministrazione con l'informatica, si potrebbero risparmiare 25 miliardi l'anno a regime, o come abbiamo visto in questi giorni è bastato centralizzare gli acquisti della pubblica amministrazione per generare dei risparmi di 10 miliardi di qui ai prossimi 10 anni. Tanto sì, è molto per un paese che oltre a soffrire gli sprechi continua ad affondare sotto le inefficienze. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, visto che oggi ci sono tanti temi, no, il professor Giavazzi, l'economista Giavazzi, l'abbiamo contattato oggi, non poteva. Quando potrà, verrà ospite, lo dico a chi chiede, immagino in merito al decalogo per il governo che ha pubblicato domenica scorsa. Dicevo, visto che sono tanti temi, non ho voglia di rispondere sui dati positivi, non è che sono a favore di Renzi o contro Renzi, sono a favore del paese, cioè meglio fare lo 0,8 rispetto allo 0,7 e soprattutto rispetto a un meno 1,4 dell'anno precedente. Per cui nessuno si deve augurare un nuovo anno di recessione, e se migliorano leggermente i dati sulla disoccupazione, anche qui è inutile tifare per il tanto peggio tanto meglio. Dopodiché i problemi sono ancora sul tappeto, abbiamo detto mille volte che è una crescita modesta, che i dati sono moderatamente positivi, nessuno sta ballando sui tavoli e festeggiando con bottiglie di prosecco. Questi dati, però, insomma, anche il deficit, se è a livello più basso dal 2007, meglio dirlo, è meglio che sia così piuttosto che un deficit superiore. Come spiegava Praterotti nei 100 secondi, a noi questa roba serve anche per la trattativa con Bruxelles, che ci deve dare via libera alla legge di stabilità. Perché quando tu vedi che hai un deficit al 2,6 e un PIL che torna a crescere, Detto questo, che siamo entrati nel 2016 un po' in frenata e che i dati degli ultimi trimestri non siano esaltanti, dell'ultimo trimestre non siano esaltanti, viene confermato oggi anche dall'indice dell'attività manifatturiera del PMI. È sceso in Italia a 52,2 punti contro i 53,2 di gennaio, e quindi ha rallentato più del previsto l'attività del settore manifatturiero a febbraio. Questo perché i problemi sul commercio con l'estero e il rallentamento di alcuni paesi che raccontiamo da settimane ci sono, e ci sono tutti. Però, insomma, per non vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto, ricordiamo che è il primo anno che cresciamo dopo 3 di recessione. Oh, altra cosa è il commento che vedo che molti di voi riportano del Premier Renzi, che su Facebook ha commentato i dati dell'Istat e ha detto avviso, dunque, i numeri dimostrano che l'Italia è tornata, non la lasceremo in mano ai catastrofisti che godono quando le cose vanno male. E fin qua mi permetto modestamente di essere d'accordo, cioè nessuno può godere se l'economia peggiora. Altra cosa invece dire avviso post urticante per i gufi, con questo governo le tasse vanno giù, gli occupati vanno su, le chiacchiere dei gufi invece stanno a zero. Insomma, posso dire che con questi gufi basta, ma povero gufo, ma che ti ha fatto il gufo? Cioè, allora, le critiche, sì, non è che sono, esprime una critica per forza un gufo. Se uno tifa per il tanto peggio tanto meglio è un masochista, visto che in questo paese lavora e abita pure lui. Ma lasciamo stare sti gufi, perché voglio dire, diventa una categoria concettuale troppo semplificante, da Walt Disney un po', dire che se uno critica fa il gufo e poi si arrabbia pure il nostro di gufo. Oh, era forse 2-3 anni da quando Renzi ha iniziato a parlare di gufi che non lo usavamo, anche perché lo usavamo per altri motivi, però no, si è risvegliato pure il gufo. Basta questa cosa dei gufi, le chiacchiere dei gufi stanno a zero. Andiamo sui numeri. Allora, Padoan dice il debito, il ministro dell'economia Padoan, il debito si è stabilizzato, il dato sul PIL reso noto dall'Istat è molto vicino alla previsione del governo, il governo prevedeva 0,9, sperava nell'1%, questa è una premessa per la discesa del debito pubblico italiano. I dati ISTAT del 2015 ci dicono che il PIL è cresciuto dello 0,8%, un dato molto vicino alla previsione che da tempo era stata formulata dal governo in proposito. Ci dicono che l'indebitamento netto è il 2,6% del PIL, esattamente il numero previsto e su cui naturalmente c'è l'impegno di gestione della finanza pubblica. Ci dicono che il debito è passato dal 2014 al 2015 di un 0,1%, quindi è praticamente stabilizzato, una premessa fondamentale per permettere al debito, a partire dal 2016, di scendere. Quindi il governo mantiene i suoi impegni di finanza pubblica, li mantiene in un contesto in cui la crescita c'è, perché questa crescita, ci dice il dettaglio dell'Istat, vede più consumi e più investimenti. Ma soprattutto, e questo è, e lo dico sempre, il dato più importante per misurare il successo della politica economica, i dati sull'occupazione sono estremamente incoraggianti. Quindi io traggo da questi dati importanti oggi la convinzione che la strategia del governo deve andare avanti lungo le linee che ha fatto finora. E poi taglio di l'anticipo della riduzione dell'IRPEF promessa dal governo. Allora, oggi, come già fatto ieri dal sottosegretario Nenicini, se non ricordo male, oggi il ministro dell'economia ha gelato ogni ipotesi, c'era stata un'intervista del viceministro Orlando, di un'anticipazione del taglio della riduzione dell'IRPEF nel 2017. Ha detto, al di là degli annunci di nuovi tagli di tasse che andranno comunque collocati, andrebbero nel quadro di compatibilità andrebbero valutati gli impatti di tagli già effettuati, e quindi nuovi tagli di tasse solo se compatibili. Ricordo che nel 2014-15 il governo ha tagliato il cuneo fiscale, nel 2014 l'IRPEF è stata ridotta per i redditi più bassi per 10 miliardi di euro, i cosiddetti 80 euro. Nel 2015 il governo ha cancellato l'IRAP sul lavoro, a decorrere dal 2016 è stata abolita la TASI sulla prima casa, l'IMU sui prodotti, sui terreni agricoli e sui macchinari imbullonati. La riduzione dell'IRES a decorrere dall'anno d'imposta 2017 è già legge. Ricordo le agevolazioni fiscali sulle assunzioni a tempo indeterminato. Ricordo che la legge di stabilità 2016 ha introdotto la possibilità di ammortamento del 140% del valore di nuovi beni capitali e ha esteso i benefici fiscali per le regioni del sud. Quindi, al di là degli annunci di nuovi tagli di tasse che andranno comunque collocati in un quadro generale di compatibilità, io direi che andrebbero valutati gli impatti dei tagli già effettuati e che si cominciano a vedere chiaramente in termini di redditi e consumi delle famiglie, in termini di occupazione, in termini di investimenti. Sì, ho detto Orlando, no, è chiaramente il viceministro Morando che aveva ipotizzato, non escluso, un anticipo al 2017 del taglio IRPEF. Restiamo sul fisco, però sulla lotta all'evasione fiscale, perché da un lato il ministro Padoan ha detto, nonostante gli impedimenti che lo hanno reso un anno difficile, il 2015 è stato un grande successo nella lotta all'evasione fiscale. Dopo 9 anni dall'inaugurazione del nuovo sistema i risultati sono quasi quadruplicati, i risultati parlano da soli. Nonostante gli impedimenti e le difficoltà che hanno reso il 2015 un anno particolarmente difficile, ma è stato anche un anno di grande successo, e queste due cose messe insieme dicono molto, se non tutto, sulla qualità del lavoro di questa agenzia, che di nuovo io vorrei ringraziare e unirmi alle cose dette dal collega Luigi Casero sul fatto che naturalmente questa debba essere la base per andare avanti. Fatemi ripercorrere rapidamente alcuni temi, molti sono stati già toccati, mi scuso per la ripetizione, ma è importante fissare bene questi punti perché siete di fronte a un mutamento importante. Il governo è impegnato in una radicale riforma dell'amministrazione fiscale, è ispirata a una maggiore trasparenza, a una rinnovata efficienza dell'innovazione del sistema dei servizi erogati, e il direttore Orlandi ci ha dato un'ampia analisi di questi punti. Il nuovo sistema, che è in linea con le migliori pratiche internazionali, trasforma il fisco da verificatore ex post a un soggetto che agevola gli adempimenti fiscali sfruttando le nuove tecnologie. Si migliora così il tasso di adempimento sulla base di un approccio cooperativo, di lealtà e fiducia fra i cittadini e le amministrazioni fiscali, che ora forniscono maggiore supporto ai contribuenti. Allora, vedo molti messaggi sulle tasse, ma dov'è che le tasse sono calate? Ragazzi, vediamo di capirci. Se la pressione fiscale rispetto al PIL prodotto passa dal 43,3%, scende sostanzialmente al 43,3% contro il 43,6% del 2014, è lo 0,3% del PIL. Cioè, stiamo parlando complessivamente di 4 miliardi di euro, ok? Per cui è ovvio che 4 miliardi di euro di calo della pressione fiscale non li senti, li posso sentire alcune categorie, un po' la fascia che ha maggiormente beneficiato degli 80 euro come reddito, la coppia famosa che stava intorno ai 25-30 mila euro di reddito lordo, che ne ha beneficiato, lì li possono sentire, ma è ovvio che tantissima altra parte del paese non la sente. Stiamo parlando di mal calcolati 4 miliardi in meno di pressione fiscale, anche qui sempre meglio che 4 miliardi in più. Faccio notare che nel 2011 eravamo al 41,6% del PIL, siamo adesso al 43,3%, ci sono ancora 2 punti quasi percentuali in più di pressione fiscale, che vogliono dire circa 25 miliardi di euro in più. Per cui è normale che uno non la noti. Detto ciò, il dato statistico è il dato statistico. Sentiamo in tema di tasse, visto che il ministro Padoan ha parlato alla presentazione dei dati dell'Agenzia delle Entrate, la direttrice Rossella Orlandi: record di lotta all'evasione nel 2015, 14,9 miliardi, la somma più alta mai riportata nelle casse dello Stato. Nel 2014 furono 14,2 miliardi. Sentiamo al microfono il nostro Vincenzo Miglietta. Una cosa è l'ammontare delle imposte evase e il contrasto a quelle imposte evase che si fa con molta più incidenza di quella che vedete. Una cosa è il requisito di recupero di cassa, che sono due cose completamente diverse. Lo sforzo dell'agenzia nel contrasto all'evasione è molto più significativo in termini di numeri e di importi, e devo dire è veramente significativo, perché parliamo di alcune decine di miliardi, di cui l'effetto di recupero è variegato e passa attraverso fasi. Io credo che 15 miliardi di cassa siano uno strumento, un risultato straordinario, considerate anche le difficoltà finanziarie, perché l'evasione, come dico io, spesso si consuma, cioè quando noi arriviamo a contestarla quell'evasione non è più recuperabile perché è bruciata, non so, quindi tutta la parte della riscossione che non riesce a concretizzarsi, ma perché è legata all'inesistenza poi dei beni. Quindi lo strumento con cui dobbiamo evitare queste diversità di risultati è la tax compliance, cioè vuol dire esserci prima, fare in modo che quell'evasione non si concretizzi nel momento stesso dell'adempimento, perché se si adempie in quel momento poi il recupero sarà comunque sempre difficoltoso. E poi la famosa battuta sul lato oscuro: chi non ha risposto a un approccio collaborativo conoscerà, permettetemi la battuta, il lato oscuro dell'accertamento. Ma non c'è bisogno di minacciare in questo modo, direttrice Orlandi, su. Chi ha problemi conosce già il lato oscuro, che poi è il lato legale. La Orlandi ha parlato in particolar modo dello spesometro, alle cui richieste ha risposto solo una parte molto limitata. Con chi non ha collaborato, ha aggiunto l'Orlandi, dovremmo cambiare approccio, immagino, non in maniera più morbida e indulgente. C'è un solo neo che intendo rimarcare, così che non si dica che tutto va bene. Non è così. Prendiamo il dato sulle comunicazioni clienti-fornitori, cosiddetto spesometro. Solo una parte molto limitata ha risposto alla richiesta. Al netto di eventuali errori e quello che può essere, io ricredo che in questo caso noi dovremo cambiare per questi naturalmente approccio, quindi coloro che non hanno risposto all'approccio collaborativo conosceranno, permettetemi una battuta, il lato oscuro dell'accertamento, e quindi avranno il controllo da parte nostra per essere indotti questa volta con altri metodi alla compliance. Allora, vedo molte battute sul lato oscuro, il maestro Sith del lato oscuro, immagino sia Guerre Stellari, non sono un grande competente su Guerre Stellari, qualcosa di più però vorrei dire alla direttrice Orlandi, a parte che secondo me anche lato oscuro si poteva evitare, questa idea che, certo, l'agente delle entrate fa il suo lavoro e se uno non risponde avrà un approccio ancora più insistente, però... ci sono anche altri lati oscuri che magari non pertengono alla direttrice Orlandi in senso stretto, ma al governo sì, nel senso che il lato oscuro del contribuente, per esempio, è il modello unico 2016, sono 219 pagine totali, poi ci sono le istruzioni per la dichiarazione separata dell'IRAP di 113 pagine e vale per le società di capitali, società di persone fisiche. Ora, non è che uno debba leggere tutte, ma si può criticare il lato oscuro di un fisco che ti presenta quasi 400 pagine per il modello unico, e meno male che era unico, se era più di uno quante erano le pagine? per il 2016. Allora parliamo anche del lato oscuro della burocrazia dal punto di vista fiscale, che rende impossibile a un normale cittadino uscirne. 219 pagine più 113 pagine per la dichiarazione separata dell'IRAP. Anche questo è un lato oscuro, no? Allora, andiamo adesso sul meteo, poi commentiamo la borsa che ha chiuso bene, più 2,15%, Parigi più 1,16% invece, Francoforte più 2,33%, Londra più 0,90%, bene alcuni titoli, Finmeccanica e Monte dei Paschi. Parleremo anche del mercato del lavoro e della Popolare di Vicenza. Attenzione, perché mentre oggi escono indiscrezioni che la Procura stia indagando anche per associazione a delinquere, oltre che per false comunicazioni, beh, una cosa che manderà in bestia gli azionisti fregati della Popolare di Vicenza è che anche nel 2015 sono cresciuti i compensi per i vertici della Popolare di Vicenza del 9%. Quindi ci sono 120.000 soci che aspettano di conoscere quanto, non è quanto scenderà il valore della quotazione, ormai già 6,30 euro, che deve fare ancora. Nel corso dello scorso esercizio, la Popolare di Vicenza ha pagato ai propri dirigenti strategici, consiglieri, sindaci e componenti della direzione generale 16,7 milioni di euro a fronte degli 11 milioni del 2014, il 52% in più. Cioè nell'anno in cui la banca è saltata per aria, nel senso che ha dovuto dichiarare, svalutare del 90% il valore iniziale, è cambiato l'amministratore delegato, si è dimesso Zonin, la procura indaga, più 50% i bonus ai dirigenti, complimenti. Ora uno dice, ma guardala bene la notizia, perché in realtà i compensi sono stati di quasi 5 milioni di euro di indennità corrisposte per fine del rapporto di lavoro, cioè le buone uscite legate in maniera eccezionale, una tantum, dice il numero uno Iorio, vorrei anche capire che fosse una semper, ai manager che se ne sono andati, a partire dall'ex amministratore delegato Samuele Sorato, che mi risulta indagato, però vado a verificare. Però scusatemi, a parte il fatto che anche al netto di queste bonus una tantum, l'aumento di un milione di euro è riconducibile a un patto di stabilità interna non concorrenza, perché sono saliti comunque i compensi. Ma io dico, ma si può sentire una notizia per cui tu a uno che mandi via con una banca in ginocchio, con la ricchezza del territorio distrutta, mi giustifichi la cosa? Beh, sai, abbiamo dovuto dare dei bonus una tantum, 5 milioni da una parte, comunque in tutto 17. Ma io avrei voluto vedere, forse dico una cavolata, ma con quel tipo di gestione della banca il dato non doveva essere 16 milioni e 7, ma neanche gli 11 milioni dell'anno prima, doveva essere zero. Zero. Meteo. Focus Economia. Adesso arriveremo anche alla Popolare di Vicenza. Attenzione, l'aumento di un milione dovuto a soldi al nuovo CDA, in particolare il patto di non concorrenza con il nuovo management. Vabbè, però quello che non si giustifica, o si giustifica ancora di meno, sono i 5 milioni di indennità corrisposte agli ex manager che se ne sono andati. Quando una banca è in ginocchio hai distrutto valore. Abbiamo fatto un calcolo con il Sole 24, ha fatto il calcolo con Fabio Pavesi, che tra Veneto Banca e Popolare di Vicenza hanno distrutto, perché non è un conto quando tu hai un'azione che va male in borsa, ma finché non la vendi tu non hai una perdita, quando la vendi hai una perdita, ma puoi anche tenerla per anni, sperare che un domani risalga, cosa che avviene ogni tanto. Ma se tu la tua azione ti viene svalutata da 62 a 48 euro e poi da 48 a 6,3, tu hai già perso e basta. Non è che puoi sperare che risalga a prezzi assolutamente inimmaginabili, fuori da ogni logica di mercato, perché il prezzo di 6,3 euro è quello più realistico, visto che oggi il Consiglio di Amministrazione della Pop Vicenza ha votato via libera la quotazione e poi dovrà fondersi con qualcuna. Quindi devi dare un prezzo al valore dell'azione realistico, non puoi sparare il prezzo che vuoi tu, come hanno fatto i vecchi vertici, a 63 euro quasi per azione, facendoli comprare, e soprattutto con questa simpatica pratica di chiedere, se volevi un mutuo o un prestito, di comprare l'azione della Pop Vicenza, cosa che facevano anche a Veneto Banca. Ed ecco che dicevo che Sole 24 Ore ha calcolato che tra Veneto Banca e Popolare di Vicenza hanno distrutto veramente, non bruciati virtualmente, 10 miliardi di euro di risparmi nell'asse che va da Vicenza a Montebelluna. Ok? Complimenti. e tu gli dai quasi 5 milioni di indennità. Poi Sorato ha controllato, ha indagato la procura di Prato. Per carità, era il vecchio direttore generale. Qualcuno qualche responsabilità ce l'avrà su sta banca. Chi l'ha deciso di portare il valore dell'azione a 62 euro per azione? I vertici precedenti, no? Allora, presidente, amministratori delegati, collegio sindacale, tutta quella roba lì. Gli ispettori della BCE si accorgono, ma quella della Banca d'Italia? Sì, però insomma il bubbone esplode quando arrivano gli ispettori della Banca Centrale Europea di Mario Draghi. Se lo ricordi la Banca d'Italia ogni tanto, e vale anche per Veneto Banca. Vabbè, meglio che non mi arrabbi troppo. Onorevole Carlo Della Ringa, economista, ex sottosegretario al lavoro, deputato del PD, lo diciamo ogni volta, però io di lei mi fido perché ha una coscienza critica sui dati anche del lavoro. Allora, la disoccupazione dei giovani a gennaio è risalita al 39,3%, che è il valore più alto dall'ottobre. Però è chiaro che il governo festeggia sui dati della disoccupazione a gennaio complessiva, che è dell'11,5% rispetto al 12,2% di un anno prima. E Renzi ha twittato: ci sono 720.000 nuovi tempi indeterminati. Domanda: è preoccupato più per il dato di inizio anno, di come siamo entrati nell'anno, o è più contento per il raffronto anno su anno? Non so se. È chiaro. Il raffronto anno, sì, sì, è chiaro. Il raffronto anno su anno è molto positivo in termini assoluti, e poi c'è una caratteristica che rende ragione un po' delle discussioni che abbiamo fatto in tutti questi mesi, in una certa misura, e cioè che anche l'Istat con gennaio registra un forte aumento degli occupati a tempo indeterminato, cioè i cosiddetti permanenti. Se ci ricordiamo, fino a qualche mese fa si diceva qui è solo l'INPS che registra questo forte aumento di contratti a tempo indeterminato, quelli più stabili, no? Tutele crescenti, mentre l'Istat arranca e non registra forti aumenti. Ecco, con dicembre anche l'Istat diciamo si avvicina al dato dell'INPS, e infatti, diciamo così, su base annua, gennaio dell'anno scorso abbiamo 426.000 contratti a tempo indeterminato in più. E ripeto, è un dato positivo in sé, perché vuol dire che Jobs Act ha funzionato, ma soprattutto, ecco, a questo punto possiamo dire che i dati INPS e Istat si stanno avvicinando, quindi può darsi che sia stato anche... Sì, Della Ringa ha fatto il Jobs Act, ma da quello che vediamo ha fatto anche e soprattutto la decontribuzione, quindi gennaio-dicembre. Certo. Perché sono... Jobs Act come diciamo complesso di interventi, certamente anche soprattutto quello della decontribuzione. Mm-hmm. Anche questo volevo dire, sì, perché questo dato di dicembre senz'altro sarà gonfiato un po' positivo, ma sarà gonfiato perché le imprese hanno anticipato le assunzioni a dicembre, e quindi il dato dell'Istat l'ha registrato a gennaio, ma sono assunzioni fatte a dicembre, alla fine di dicembre, perché le imprese sanno che all'inizio di gennaio la decontribuzione si ridurrà. Quindi non c'è dubbio che c'è un anticipo di assunzioni che noi probabilmente nei prossimi mesi vedremo, non dico scomparire, ma attestarsi. Ecco, è, cioè, un aumento, c'è stata forte anche un po' chi voleva utilizzare la decontribuzione massima, cioè fino a 8.100 euro all'anno, aveva tempo di fare il contratto, di assumere a tempo indeterminato entro dicembre, partiva da gennaio, perché quest'anno vale la metà, vale 4.000 euro. Quindi quello che lei ci sta dicendo è che è probabile che a dicembre, tra novembre e dicembre, ci sia stata, non dico la corsa, ma insomma un'accelerazione in chi non voleva perdere l'occasione, perché poi ci perdevi dei soldi a gennaio, e questi dati non li rivedremo necessariamente più. Qua, visto che la decontribuzione quest'anno vale molto, molto meno. Su questo ascoltiamo anche il ministro, Premier Matteo Renzi, sempre su Facebook, dice: il boom del Jobs Act è impressionante, abbiamo raggiunto l'obiettivo di quasi 500.000 di posti di lavoro in più, e a tempo indeterminato sono aumentati di 764.000 unità. Ripeto, attenzione, per essere precisi, è più la decontribuzione che il Jobs Act. Vedremo quest'anno come andrà, invito alla cautela ogni tanto anche il nostro Premier. Detto ciò, il ministro Poletti dice: un grande risultato grazie alle aziende, agli imprenditori che hanno avuto fiducia nei giovani e nel loro futuro. A breve daremo una stretta anche stringeremo i bulloni sul voucher, cioè i buoni per lavoro accessorio. La stiamo facendo, la chiuderemo rapidamente, io credo che in qualche settimana faremo un intervento per stringere un po' i bulloni. Vediamo quello che serve, perché bisogna non buttare, come si suol dire, il bambino con l'acqua sporca. Nella vicenda dei voucher ci sono degli elementi di positività che sono l'emersione del nero e poi ci sono dei comportamenti sbagliati, illegali o scorretti. Quindi bisogna tagliare la parte illegale, ma non bisogna buttare la parte dell'emersione. Quindi, e quindi sì, lo faremo breve, io penso qualche settimana e saremo in grado di intervenire. Su cos'è che siete preoccupati della Ringa? Perché che qualcuno stia usando i voucher non per loro, diciamo, obiettivo reale e legittimo, ma per nascondere altre forme di lavoro? Beh, può essere, perché un'esplosione così forte in concomitanza della stretta che sono state fatte sulle collaborazioni a progetto fa presupporre che tante imprese, soprattutto anche così cooperative del terzo settore, che utilizzavano molto le collaborazioni a progetto, una volta che si è chiuso il rubinetto su quelle, si buttino su questi tipi di voucher. Io direi attenzione di non fare un passo indietro troppo forte, perché sappiamo che questo è uno strumento molto efficace per combattere il lavoro nero. Certamente va e quindi non riguarda solo la parte giovanile, riguarda soprattutto, lo dico agli ascoltatori, riguarda soprattutto il lavoro nero, cioè quelle forme che altrimenti non sarebbero mai emerse. Quindi bisogna stare attenti a non tornare indietro, perché può darsi che una parte di questo forte aumento sia anche fisiologico e vada bene. Basta accentuare gli aspetti di tracciabilità, perché se veramente con la tracciabilità noi siamo in grado di capire che si tratta effettivamente di lavori e lavoretti che durano poco, vanno benissimo. Certamente se sono lavori che durano mesi e mesi e mesi, viene il sospetto che nascondono altre forme di rapporto di lavoro che potrebbero invece avere. Però sono d'accordo con lei che, essendo uno strumento che mette porta alla legalità, magari lavori che tipicamente finivano in nero, il lavoro settimanale di qualche settimana, di qualche giorno, magari fatto, che erano prestazioni che sapevamo che finivano in nero. Se l'utilizzo del voucher te le fa emergere, attenzione a non rovinare quella cosa lì, ecco. No, perché... no, è molto positiva, perché fa crescere non solo le statistiche, ma anche il gettito tributario e dà anche un po' più di sicurezza ai lavoratori, che ricordiamoci, ancorché non completo, hanno un po' di contributi previdenziali. Sì, ma soprattutto sono regolarizzati, per quanto regolarizzati per un tempo brevissimo. Ma col voucher acquistano dignità legale. E assicurazione contro gli infortuni. E assicurazione contro gli infortuni, perché questo è un altro degli elementi pessimi del lavoro nero. E grazie anche a Carlo Della Ringa. Dopo il traffico torniamo a parlare della Popolare di Vicenza, perché dalle indiscrezioni che sono emerse, insomma, i reati non sono solo il falso in bilancio, ma addirittura l'associazione per delinquere. Su un caso del genere, perché ci fu per il Monte dei Paschi di Siena, ma lì eravamo veramente di fronte a operazioni su un caso del genere non ricordo un'ipotesi di situazione per delinquere sul fatto che una banca perda il valore drammaticamente, cioè l'azione vada da 100 a 10, cosa che è successo, per quindi vuol dire che gli inquirenti hanno qualche elemento in più. Non è solo la cattiva gestione di una banca, che è fuori discussione, che ti può dare l'associazione per delinquere. Traffico. Focus Economia. Allora, dicevamo, un conto è criticare la pessima gestione della Popolare di Vicenza, che ha portato prima a emettere un'azione, era il 2000 fino al 2014 le azioni valevano fino a quell'estate 62,5 euro e venivano offerte a questo valore, cioè tu andavi in banca per chiedere un mutuo, ti dicevano sì ma compri anche le azioni, chiedevi un prestito, ti dicevano sì ma compri anche le azioni. Addirittura ci sono ipotesi dell'indagine di clienti a cui è stato concesso un prestito per comprare le azioni, peggio mi sento. Tanto, siccome era la tua banca, la banca del territorio, ti dicevano guarda che ma quando vuoi, se hai bisogno, le rivendi, la banca è solida, le rivendi. Quando iniziano i problemi, e cioè grazie agli ispettori della Banca Centrale Europea, emerge che la Popolare di Vicenza, come Veneto Banca, non aveva messo a bilancio correttamente delle sofferenze, cioè continuava a immaginare che alcuni prestiti sarebbero rientrati quando era impossibile che rientrassero, e artificialmente pompava, diciamo, teneva su il capitale della banca, la spiego a tutti, con queste azioni messe a un prezzo altissimo, irrealistico. Ebbene, quando gli ispettori della BCE scoprono questa cosa, ovviamente gli azionisti iniziano a dire beh aspetta che le vendo, cosa capita? Che non riescono a trovare mai un compratore. Uno andava alla banca, vorrei vendere anche a 50 euro, non c'è compratore. Anche a 55, non c'è compratore. Finché a metà del 2015, nell'assemblea dell'aprile 2015, si decide che il prezzo non è più 62,5 ma è 48 euro. E già iniziano i dolori. La decisione appunto del CDA attribuisce alla Banca Popolare di Vicenza un valore di 592 milioni di euro a fronte dei 4 miliardi e 510 milioni che capitalizzava col prezzo di 48 euro d'azione. Perché lo dico? Perché questo è l'ultimo valore di riferimento, cioè mezzo miliardo, poco più, che ha deciso il Consiglio di Amministrazione nuovo, attuale, prima di quotare la banca in borsa, facendo scendere il prezzo dell'azione da 48 a 6,3 euro, senza che nel frattempo nessuno, o quasi nessuno, abbia potuto vendere il titolo. Questa è la vicenda. Chiedo invece a Sara Monaci del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Perché il falso bilancio si può intuire. Se tu dici, continui a dire che hai degli attivi che in realtà sono prestiti che non rivedrai mai più, stai facendo una falsa comunicazione sul bilancio. È l'associazione per delinquere che mi lascia sorpreso. Allora, abbiamo avuto conferma, effettivamente si tratta di un reato che è allo studio, non è ancora una certezza, ma gli inquirenti lo stanno ipotizzando. In realtà l'associazione a delinquere perché? Perché l'associazione a delinquere si contesta quando ci sono delle azioni che si ripetono nel tempo e che vengono fatte da un gruppo di persone. Si dice appunto che l'associazione a delinquere esiste quando esiste un accordo fra tre o più persone. Ecco, quindi quando si intravede l'ipotesi di un accordo per azioni ripetute, allora si contesta l'associazione a delinquere. È un reato, diciamo così, accessorio, secondario, secondario come tempo, rispetto all'indagine di base, che è quella che appunto hai detto tu, falso in bilancio, che dovrebbe essere contestato poi anche questo successivamente, l'ostacolo alla vigilanza e la falsa rappresentazione del valore delle azioni, quello che nelle quotate si chiama aggiotaggio. Qui non siamo di fronte ad una società quotata, quindi si chiama falsa rappresentazione, una sorta di aggiotaggio in tono minore, perché non si tratta di una quotata. L'associazione a delinquere sarebbe una novità che chiaramente aggrava il panorama. Credo che Tu hai spiegato bene che l'associazione per delinquere si dà anche quando c'è una reiterazione del reato. Sì. Però lo dico, insomma, qui il meccanismo l'abbiamo capito ed è ha travolto i vertici, gli ex vertici della Popolare di Vicenza e anche di Veneto Banca. Però mi sembra da un punto di vista degli inquirenti un salto qualitativo, cioè un conto è dire tu hai comunicato, hai abbellito i conti e quindi hai ostacolato la vigilanza sul valore vero delle sofferenze, hai fatto una falsa rappresentazione che appunto si chiamerebbe aggiotaggio dei conti, come stavi messo, di quanto potevi recuperare e hai di fatto fatto una falsa comunicazione in bilancio. La situazione delinquere vuol dire che tutto questo però... aveva un accordo, aveva una decisione, una preorganizzazione che durava nel tempo. Ovviamente qui siamo di fronte a una delle situazioni più frequenti quando ci troviamo di fronte a queste inchieste che riguardano la banca, ovvero delle false patrimonializzazioni, perché queste banche legate al territorio poi a un certo punto si sono trovate con dei parametri patrimoniali non adeguati alla mole anche dei prestiti e delle attività. In più, complice la crisi che ha fatto sì che alcuni crediti, molti crediti non siano stati restituiti, e però non sono stati appunto svalutati, non sono bastava messi quello, al ballancio. Cioè nel senso che non è colpa della Popolare di Vicenza, di Veneto Banca la crisi. Beh, un po' diciamo è colpa non aver guardato con oculatezza a chi poteva andare. E questo riguarda le vicende anche spesso sono diversi. Collegate al territorio, no? Piccoli sì, favori. Ma infatti lì andremo a vedere poi a chi venivano dati, con che valore i prestiti, perché è quello che ha fatto saltare per aria anche l'Etruria, la Chieti, cioè, se noi guardiamo i problemi, c'è un comune denominatore che venivano dati agli amici. In modo un po' leggero, però la crisi chiaramente aggrava, magari senza crisi avremmo avuto situazioni certo. più gestibili. Il giochetto funzionava se tanto tu continuavi a raccogliere e a non aver problemi con le altre imprese. Quando saltano le imprese perché c'è la crisi e tu inizi a avere sofferenze, sommi a sofferenze dovute alla crisi, sofferenze dovute al fatto che gli hai dati gli amici e degli amici. Questo è un po' il però la svalutazione avrebbe voluto dire quindi aprire l'azionariato, certo. Cercare altri azionisti e quindi toglierla probabilmente dall'ancoraggio al territorio, che paradossalmente è proprio dall'ancoraggio quell'ancoraggio ai poteri del territorio. Dà, esattamente. Diciamo. No, perché giustamente mi chiedete perché, perché non l'hanno fatto piuttosto che rischiare. Perché se tu ammetti che la banca è messa molto peggio di quanto era raccontato fino a ieri, devi dimetterti. Quindi si doveva dimettere il CDA della Popolare Etruria, Boschi compreso, si doveva dimettere il CDA della Popolare Vicenza. Ma magari poteva arrivare anche qualche fondo straniero, voglio dire, a ricapitalizzare, togli il però potere al territorio. Il fallimento. Questo, diciamo, non conveniva e quindi si è cercato di andare avanti con operazioni di maquillage finché poi il tutto non è scoppiato. Quando avremo conferma o no, Sara Monaci? Allora, innanzitutto abbiamo una settimana molto delicata per Popolare di Vicenza, perché ha appena fatto richiesta di quotazione e è in cerca di nuovi fondi per la ricapitalizzazione. Quindi queste notizie arrivano proprio in un momento molto delicato. Io credo che dalle prossime settimane, probabilmente nel prossimo mese, io mi attendo anche, come dire, l'ampliamento della ricerca delle responsabilità. Al momento sono 6 gli indagati e non escludo che aumenti il numero degli indagati. Sì. Grazie a Sara Monaci, GR24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Il 12 marzo seguici in un mondo a 24 zampe. Rosita Celentano e Angelo Vaira ti aspettano a Milano per Chiedimi se sono felice live, un evento esclusivo dedicato agli animali e all'importanza della loro presenza in famiglia, con testimonianze di esperti e dimostrazioni di addestratori professionisti. Chiedimi se sono felice live, sabato 12 marzo alle 15, Palazzina Appiani, Arena Civica di Milano. Corri a iscriverti su radio24.it. Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Focus Economia. :18 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, già il nostro GR24 adesso vi ha aggiornato sui dati appena usciti delle immatricolazioni auto. Torna a correre il mercato auto in Italia, appunto a febbraio più 27,3% rispetto al febbraio del 2015, che vuol dire 172.241 auto immatricolate. Allora, nel frattempo sono uscite anche altre agenzie sulla vicenda popolare di Vicenza. Ha parlato il procuratore capo di Vicenza, Antonino Cappellari, ha detto: ci troviamo di fronte ad un'organizzazione strutturata, la banca all'interno della quale alcune persone avrebbero operato con una struttura gerarchica e ben organizzata per mettere a segno un numero indefinito di reati. Già oggi ci troviamo con almeno 500 casi di azionisti che lamentano di essere stati truffati, e a questi numeri bisognerà certamente aggiungere altri 100 che sono già stati depositati alla procura di Udine. È per questo motivo che ho chiesto alla Corte d'Appello di assegnare a Vicenza un magistrato distrettuale che possa essere applicato all'esame di ogni singola posizione. Quindi, insomma, non conferma che l'intenzione della procura è quella di andare verso l'associazione dell'incubo, perché organizzazione, una struttura gerarchica ben organizzata, insomma, gira la rigira, è così. Al di là delle banche non quotate, veniamo alle banche quotate. Oggi la borsa ha chiuso con un più 2,21% su Milano, Parigi più 1,20, Francoforte più 2,30, Londra più 0,90, Dow Jones più 1,70%. Per quello che riguarda i titoli, bene Finmeccanica più 6,90%, Fiat Chrysler più 5,30, Monte dei Paschi più 5, Azimut più 4,60, Mediaset più 4,5 come Atlantia. Il 4% lo guadagna Mediobanca, il 3,60% Ubibanca e Ferragamo, ma anche Campari. Il 3,30% è il rialzo di Telecom, il 3% lo portano a casa Unipol e Anima Holding, ma anche Eni. Di negativo c'è pochissimo, c'è neanche Industria, almeno 0,40%. Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, dicevo, beni bancari un po' più deboli alcuni, sostanzialmente avevamo visto un po' più al palo Popolare Emilia Romagna più 1,50%, Pop Milano più 1,88%, però alla fine Intesa San Paolo più 1,90%, hanno chiuso bene anch'essi. Cito, così concludo, anche Unicredit più 2,40% e il Banco Popolare più 2%. Sono sempre le azioni, le attese sulle iniziative della Banca Centrale Europea a far comprare i bancari? Certo, soprattutto perché dopo il brutto dato sulla deflazione europea di ieri, in più oggi abbiamo visto che è in atto un rallentamento anche dell'attività manifatturiera testimoniato dall'indice PMI, che la misura fa sì che gli investitori a questo punto danno per scontato che il prossimo 10 marzo la Banca Centrale Europea scenda in campo per sostenere l'economia, non si sa bene come, magari aumentando il flusso di acquisti che adesso è pari, ricordiamo, a 60 miliardi al mese. Ecco, su Monte dei Paschi ci sono novità, perché il titolo guadagna più 5% a 51 centesimi di euro per azione, nonostante, dico io, le dichiarazioni del numero uno di Intesa San Paolo, Carlo Messina, che ha detto non abbiamo alcun interesse per nessuna acquisizione in Italia, ce lo impedisce l'interesse dei nostri dipendenti, clienti e soci. Sì, certo, però va detto che si tiene alta la speculazione, ricordiamo in questo caso che è stato lo stesso Mario Draghi e tempo fa ad auspicare che la banca senese vada in sposa ad altri istituti, quindi cioè, tutti si stanno tirando indietro, però evidentemente una soluzione prima o poi andrà trovata, e quindi nei giorni in cui le banche magari vanno bene, la borsa va su, anche MPS riesce a fare persino meglio. Allora, vedo molti messaggi ancora al 349-238-6666, sia come SMS che come WhatsApp sulla Popolare di Vicenza. Ne abbiamo parlato lungamente, adesso aspettiamo di vedere nuovi sviluppi. Come diceva Sara Monaci prima, nell'arco di una o due settimane dovrebbero esserci sviluppi sul fronte delle indagini da parte della Procura. Oggi i conti di Campari, l'utile sale del 36%, vendite più 6,2%, un dividendo in crescita del 12,5%, e tra l'altro l'utile netto ratificato cresce del 20% a 185 milioni, quindi buoni conti, il titolo festeggia più 3,50%. Saipem. Sì, Saipem invece in prima battuta era partita bene, i titoli continuavano a guadagnare performando bene come ieri, poi in verità si è fermata, ha chiuso invariata. In prima battuta continuava a festeggiare il fatto che i manager del gruppo si hanno acquistato azioni, è emerso proprio nei giorni scorsi. In più ieri la società ha ricevuto da un pool di banche un ulteriore finanziamento che, andandosi a sommare con la liquidità ottenuta attraverso l'aumento di capitale, ha azzerato completamente la posizione debitoria nei confronti della controllante Eni, che non a caso oggi ha guadagnato comunque il 3%. Andiamo anche sui migliori e peggiori della seduta. Allora, ripeto, Saipem invariata, come tu ricordavi, CNH meno 0,40, Generali più 0,80. Invece, in assoluto oggi a Piazza Affari, Zucchi, ma sul risparmio non convertibile, vabbè, più 8%, BS più 8,20, Rizzoli Corriere della Sera Media Group più 8%, e poi Saras più 7,70, continua a beneficiare del prezzo del petrolio che, appunto, come ricordava Leonora Micheli, anche oggi ha dato una mano a Leni e ai titoli legati al petrolio, è leggermente calato, però si mantiene ampiamente sopra i $30, verso i $33,50 al barile. Acote Group più 7,20, fronte opposto invece Digital Brothers meno 5,50, Gruppo Waste Italia meno 9,30%. Grazie a Nora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore, le informazioni sul traffico e poi il rapporto annuale sullo stato di salute dei distretti industriali di questo paese, quanto mai attuale, visto che oggi commentiamo anche il dato definitivo, abbiamo commentato il dato definitivo dell'Istat sulla crescita del PIL nel 2015. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Focus Economia. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Oh, il sogno oggi è un po' quello che ricordavamo in apertura, cioè non schierarsi come col tifo calcistico sui dati economici. Tutto il paese deve sperare che l'economia migliori. Poi il governo Renzi, sappiamo che diciamo, delle volte ha come tratto diciamo, questo eccesso di ottimismo. La polemica sui gufi l'abbiamo già fatta, basta prendersela con i gufi, lasciate stare i gufi, se uno critica fa bene a criticare. Però detto questo è inutile vedere un tifo il paese va male, tanto peggio tanto meglio. Più 0,8 è meglio della recessione degli 3 anni precedenti, è una crescita modesta, l'occupazione, la disoccupazione è calata, ne abbiamo parlato con il professor Della Ringa, ancora in maniera marginale, ci mancherebbe, perché insomma è poco, però è calata. E la pressione fiscale anche qui in maniera marginale, ma è calata rispetto al 2014, cioè dal 43,6 al 43,3%. E la disoccupazione appunto all'11,5% contro il 12,2% del 2015. Vediamo se c'è una fotografia analoga nell'analisi che ogni anno fa il gruppo Intesa San Paolo sui distretti industriali di questo paese. I distretti industriali storicamente sono il punto di forza della nostra impresa, non solo manifatturiera ma in primo luogo manifatturiera. Hanno avuto una grossa crisi di identità iniziata con la globalizzazione, quindi inizio anni 2000 e l'apertura della Cina, l'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, e poi accentuata e inasprita dalla crisi del 2008. Si sono trasformati, lo abbiamo raccontato, non solo più un distretto ma una filiera del valore, non solo più dal luogo geografico ma tu puoi avere un fornitore da un'altra parte e un cliente da un'altra parte ancora, l'importante è che si generi valore in questa filiera. Però vorrei capire se hanno dei numeri ancora più alti, migliori in media rispetto al resto del paese, i distretti industriali. Lo chiedo al capo economista di Intesa San Paolo, Gregorio De Felice, buonasera. Buonasera, buonasera a lei e a chi ci ascolta. Curatore del rapporto. Allora, tra essere in un distretto per un'impresa, che sia il distretto del tondino, della sedia, della ceramica, non mi interessa, e non essere, c'è una differenza poi in media nei fatturati? Sì, dall'indagine presentata oggi emerge esattamente questo, un dato rispetto alla situazione che avevamo nel 2008, ossia prima di questa lunghissima crisi, i distretti industriali hanno sostanzialmente recuperato tutta la flessione in termini di fatturato, il che purtroppo non è vero per il resto del manifatturiero italiano, che è ancora del 6% sotto in termini sempre di fatturato a prezzi correnti rispetto al 2008. Quindi i distretti hanno dei punti strutturali di vantaggio, ad esempio in termini di numero di brevetti, brevettano le imprese distrettuali, brevettano di più, in termini di capacità di esportare, di avere dei marchi internazionali e tutta una serie di altri parametri, tra cui anche gli investimenti all'estero. In effetti la quota di imprese che esportano, se appartengono a un distretto, è del 38%, se non è, se è in un distretto è del 29%, e vado in maniera un po' a volo d'uccello a citare alcuni dei dati che avete oggi diffuso nel rapporto annuale. Quante sono le aziende che avete analizzato? Sono analizzate circa 48.000 aziende. Per un campione, insomma, un bello campione molto ampio, 13.000 sono di imprese distrettuali e circa 35.000 di imprese non distrettuali. Allora, com'è cambiato però il modello distrettuale? Io ricordavo prima che si è passati dal distretto classico in cui tutti facevano quella cosa lì o per gemmazione nascevano dei concorrenti o comunque tutti erano fornitori e quello guidava, a distretti più orientati su chi gli dà il valore aggiunto. Però è vero che il sistema dei distretti si concentra ancora in maniera quasi esclusiva su alcune tipologie, eh? Cioè non si è espanso a tutti. Credo che un punto importante sia questo. Noi spesso sottolineiamo che le aziende italiane devono essere sempre più competitive, e questo è indubbio. L'altro aspetto, forse meno sottolineato, è che i territori di appartenenza di queste aziende o i territori dove le aziende operano devono diventare molto più competitive. E questa è un po' la caratteristica dei distretti vincenti. Dove i distretti funzionano molto bene c'è anche un ruolo di istituzioni pubbliche o private che aiutano le piccole imprese nella formazione, nella innovazione, nel dare a disposizione di questi imprenditori, piccoli o grandi, anche dei laboratori di ricerca, quindi degli spazi comuni per tutti, e questo è un grande vantaggio, soprattutto in un mondo come quello italiano. Aggiungiamo anche le banche, Felice, cioè quando le banche sul territorio, visto che parlavamo di altre banche prima, lavorano bene, prestano i soldi agli imprenditori, non agli amici degli amici, fanno anche consulenza, non erogano solo credito, ma aiutano l'imprenditore a capire che cosa non va. Delle volte il modello di business, il piano industriale c'è, è fatto male, è improvvisato, oppure è di breve respiro, cioè fanno crescere l'imprenditore sul territorio oltre che prestargli i soldi, e beh, quello serve. Poi lei citava i centri di ricerca, ci mancherebbe, il ruolo dell'università, i soggetti privati non sono solo le banche, ci sono anche le associazioni di categoria, penso a Confindustria e altre associazioni di categoria, nell'aiutare, nel creare, se ho ben capito, insomma, una rete su cui si può appoggiare l'impresa e il distretto complessivamente dato. I migliori sono, come performance, quello dell'Occhialeria di Belluno, dalla vostra classifica, quello del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, il distretto del Marmo di Carrara, quello della Gomma di Sebino Bergamasco e quello dei Dolci di Alba e Cuneo. Perché non si allarga ad altri settori? Beh, dunque, questo ha citato i primi ci sono 52 distretti, se non ricordo, in Italia. Sì, per no, cui... no, sono anche molti di più, noi consideriamo i primi 100. Okay. C'è una concentrazione di distretti nel campo dell'agroalimentare e della moda, e sono soprattutto dal punto di vista geografico nord-est e centro. Sono i settori che sono andati meglio in questi anni, in modo particolare l'agroalimentare ha avuto dei recuperi molto molto forti, è un settore dove abbiamo un potenziale enorme che per tanti anni non abbiamo sfruttato abbastanza, adesso invece stiamo facendo molto di più dal punto di vista del marketing, della tutela della qualità, della lotta alla contraffazione, eccetera eccetera, e quindi si vedono i primi risultati. Certo, come in tutte le cose, io penso non ci si possa accontentare dei risultati che vediamo. Abbiamo visto una crescita del fatturato nel biennio 2014-2015 dell'1,9%, andrà meglio nel biennio corrente, cioè quello 2016-2017, saliamo al 2,7%, credo che ci sia il potenziale nel nostro paese per fare di più. Dobbiamo aiutare queste imprese sia dal punto di vista creditizio, lo accennava lei, ma anche dal punto di vista delle istituzioni, gli enti locali e altre istituzioni private o di partenariato pubblico-privato, aiutare queste imprese a sfondare maggiormente sui mercati esteri e essere sempre più competitive. Sì, c'è siccome anche un altro tema con cui vorrei concludere con lei, il fatto che allora i distretti si concentrano su alcune produzioni classiche del nostro Made in Italy. Noi abbiamo fatto dei numeri pazzeschi nell'export grazie alle nostre imprese che si sono imboccate le maniche in questi anni, sono andati in nuovi mercati, hanno cambiato il prodotto e hanno cambiato anche la fascia, diciamo, in cui si collocavano, alzandola. E quindi il Made in Italy classico è quello che ci sta dando le migliori soddisfazioni, a partire dalle 4A, abbigliamento, automotive, legno, arredo e alimentare. Però uno dei distretti più importanti al mondo, se vogliamo chiamarlo così, è la Silicon Valley in California, no? Allora, vedere che ancora il sistema dei distretti si concentra in modo quasi esclusivo su alcune produzioni, la concia, le calzature, l'oreficeria, occhialeria, strumenti musicali, piastrelle, maglieria, abbigliamento tessile, l'agroindustria. Non manca l'appello, una parte, diciamo, di information technology, qualcosa che abbia un distretto che... Sono tutti distretti che hanno molto innovato, quindi l'IT l'hanno messa dentro i loro prodotti, ma è un distretto più legato anche a dinamiche più recenti? Beh, noi consideriamo anche questi distretti più tecnologici, li chiamiamo politecnologici, e vediamo che la crescita del fatturato, ad esempio, nei distretti dell'aeronautica, del biomedicale e della farmaceutica è superiore rispetto alla crescita complessiva dei distretti tradizionali, se vogliamo le 4A che menzionava prima. Quindi il tema tecnologia-innovazione continua a essere estremamente importante, così come talvolta è importante, e mi riferisco al farmaceutico, anche la presenza di multinazionali straniere nel nostro territorio che trovano in Italia delle capacità dal punto di vista produttivo, di conoscenze, parlo del farma, molto elevate. Quindi A Mirandola c'è il distretto biomedicale, uno più importante a livello europeo e a livello mondiale, per cui non sto dicendo no, ci mancherebbe. Era la capacità, lei dice, ci sono i poli tecnologici che su questo in qualche modo ovviano, però è importante quanto ricordava sul fatto che il distretto vince, oltre che per la capacità delle sue imprese, del fare rete, del creare una filiera del valore, vince anche se il territorio lo segue, e qui le infrastrutture, il credito, la formazione, la consulenza, la ricerca. Non bastano gli imprenditori da soli ormai, viste le sfide che hanno davanti. Grazie a Gregorio De Felice, capo economista di Intesa San Paolo. Da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.